bisogna al vento che c'è, poi c'è anche un bel freddo, il fatto è quello, c'è il vento e anche il freddo. Purtroppo, il tempo su ancora deve arrivare la cosa più, ancora il freddo di più, ancora. Le temperature più basse si dice. E vabbè, la temperatura più bassa deve arrivare. Vabbè, ci sono dei posti dove c'è già la neve, la Valle d'Aosta, eccetera, eccetera, ha già nevicato. Meglio, lo so già, meglio. È così, è così. Vediamo. Allora, cosa mi racconti tu? Lavoro? Lavoro è uno stress in questo periodo. Un po' di consegne, panettoni, cesti natalizi e via dicendo. Ho capito, ho capito. Meglio così, almeno non ti perdi d'animo. Quello no. Anzi, ti viene l'acido, perché è paura sempre di non farcela, perché è un bel di roba. Poi alla fine ce la faccio sempre. Beh, meglio così, almeno. E almeno ci guadagni anche tu un po', non molto, però qualcosa te la fai. Beh, in questo periodo guadagniamo abbastanza, Senza toccare quella roba il resto. Nel senso che le mance te le danno adesso, là, ti danno un po' di mancia. Diciamo che prima erano un bel, prima le mance ti arrivavi quasi allo stipendio con le mance che ti davano, anche 100.000 lire, 100.000 lire, 150 dentro la busta. Adesso diciamo i tempi sono un po' cambiati e bisogna un po' che dirà. Purtroppo si accetta quello che si prende già, che quello che passa con vento, poco a poco, però sempre tirando avanti. E adesso ti danno 20, 30, qualche cos'è. E vabbè, già, accontentati di quello, certo, beh, a meno lo stipendio, quelle 100, 150 mila, 150 euro delle mance te le fai tranquillo e non devi toccare lo stipendio, ce li hai e puoi utilizzare solo quelle, capito? Beh, non è un problema. Ma diciamo che non sono tutte rose. Te li fai le mance, ma sgubbi un bel. Non è roba da poco, ti fai piani, ti fai diverse consegne con i cesti, ci sono le consegne a domicilio, ci sono un sacco di cose da fare, non è che sia così, no. Ma diciamo che qualche cliente ti vuole bene, dai. E cappa, adesso è coricato già. Già si sente. Si sente che sei un po' rilassato. Beh, ma io sempre sono rilassato come voce. E niente. A me mi va di lacrima una cliente che ogni anno mi dà la mancia e si mette a piangere. E per quale motivo? Si emoziona, Mi dice. Ti auguro tanta felicità, eccetera, eccetera, tutte queste parole belle, salute, felicità, eccetera, eccetera, pace, e dopo si muore a finire. Vuol dire che tiene, in questo periodo, gli è mancato qualcuno caro, e dunque, diciamo che le cose, quando manca una persona cara si sente bene che è una certa persona, che c'è confidenza, tutto quanto, la considera come una della famiglia, capito? Vabbè, no, io a me mi conosce da piccolo, da ragazzino, avevo 18 anni quando sono entrato lì, 18 anni, No, giù 52, vai da due. Vedi, ecco perché ti ho detto che sei affezionata, ti considera come una persona di famiglia, un figlio oppure un fratello, capito? E se è per quello. È sensibile, magari è quello che la emoziona. Ma non è entrato più nessuno, non è entrato nessuno, solo a parte noi. E oramai sono tutti in sciopero, o stanno andando da qualche altra parte a modulare, boh. Io entro sul 10, non cerco nessuno, se entrerò qua va bene, sono pazienza. Già, ti voglio chiedere una cosa, un microfono dove si può buscare qua a Sassari? Che tipo di microfono innanzitutto? Un microfono normale. La GBC, e sai quanto viene, no? 21 euro, quello normale la GBC. Perché ne voglio prendere un microfono normale, per l'altro quello con l'Alan, hai capito, che l'attacco lì e a me non ce l'ho di scorta. La lanciai? No, l'Alan 100 Plus. Ecco, eh? A 4. E quello della CTE ci va bene. Quello della CTE che vende la GBC. Mi pare che costa 12 euro, 15, non lo so. Adesso ci passo e lunedì ci passo, voglio vedere lunedì mattina ci passo, voglio vedere se me la fa la modifica, perché devo comprare lo spinotto e quello che ci sta dentro il baracchino, che è a 5 punte, io glielo voglio mettere a 4, capito? Uh-huh. E mettere il microfono normale, capito? Quello a 4. Perché lo vuoi cambiare? Perché sì, almeno lo posso utilizzare in tanti micro, in tanti apparati, anche quello che ho in macchina è a 4 e ci posso mettere anche quello normale, capito? Dipende, può essere a 4 rovesciato anche. E cappa. Vabbè, adesso lunedì vedo un po', lunedì mattina mi faccio un giro e vedo un po'. Ma tu dovresti comprare la femmina, il maschio a 4, così? Eia. E ci sta, si può fare. Sì, ma ha detto che si può fare. Togliene quello là e mettermi quello a 4, capito? Invece che a 5, quello suo originale. Mettilo a 4. Capito, chiedimi la lap down. Eccolo lì. Appagato. Ma poi non puoi più cambiare la microfono, lo sai? Io lo so. Macchina adesso cosa c'hai? Sempre quello che mi ha regalato Antonello. Il Plucco? No, il Galas, c'ho. E il Galas Plucco? Quello lì c'ho sempre. Paga, poi già va bene. Già va bene. Se no faccio una cosa, mi trovo un alimentatore da 30 ampere e lo metto qua a casa, e questo faccio alternato, capito? Uno o modulo uno o modulo l'altro. Appaga. E l'alimentatore è uguale a quello che ti copri, non ti comprare quel proxel da 50 ampere che non serve a nulla. Da cosa no? Da CBC non gliene prendo, è troppo caro. Gliel'ho chiesto una volta, ne voleva 75 euro, quello da 50. E strumenti ce li aveva? Ah? Gli strumenti ce li aveva? Sì, ce l'aveva tutto. Ebbene, è molto 75 euro, l'ho pagato 130 il mio. Non è molto. Adesso vediamo. Se no, vediamo un po'. Se no lo ordino su internet, me lo faccio ordinare su internet e vediamo quanto risparmio. Nulla praticamente. Nulla? E tu da 50 euro l'hai trovata col prezzo, prendilo subito perché conviene. Te ho capito. Non c'è neanche che costano così poco su internet da 50, Sì, ho capito. ai. Ma il mare, sembra abbastanza tranquillo, però c'è quattro cazzo di vento. Sai che se c'erano le barche che andavano a partire all'acqua stamattina, c'erano le onde dentro il porto, io non ho mai visto le onde dentro un urbo. Oh, allucinante. Ma questo penso che ci arrivano da Alghero. Avanti? Via Alessà. E Giuseppe Leoncino. Chi è già? Sandro Urbaibì. Oh, buonasera Sandro. No, ti ascolto. Anche perché Giuseppe abita vicino qua. Mi è attaccata l'antenna adesso. In mezzo. Alessandro il vento è pazzo. E cappa. Sandro! E non ci sentito là. Anche se un po' bassottino già ti sento. Ma anche io mi sto alzando che devo andare. E devo andare a dare a un po' di colleghi e poi devo andare a lavoro. Vabbè, ce la risento. Ciao. Ciao, Liuna. Saluta me Sandro su questi giorni. Adesso. E ha chiuso. Babbo, là. Passaci direttamente, buonanotte, tanto lo sento, me lo trovo. Sì, ciao, vabbè, dai. Ciao. Ciao, Leone, ti amo.